osservate. C'è qualcuno su canale 10? Ciao Giulio, c'è Fabio, ti sta chiamando. Io sì, Giulio. Ok, avanti, chi mi chiama? Ciao Antonello, sono. Ti stava chiamando Fabio, non lo senti? No, non sento nessuno. Fabio non lo sento. Chi ha detto Fabio? Ma tu perché mi stai levando così basso e così brutto il radio? Ah boh, non lo so. Sentiamo sì, mi stai levando, sì, in mezzo. E il radio poi è poco. È tutta cupa, tutta bocca, vabbè comunque. Santiago sei in mezzo, no? Non può essere che... Aspetta un attimo. La stazione non è io, c'è un euro. Stati fino alle 9:30 stamattina, 9:30. Diciamo... Va bene, mi prova, cioè. Siamo arrivati qua. Via. E adesso sei in mezzo, Santiago. Adesso sì, adesso sei 9:15, adesso è l'ultima, adesso va bene, però la radio non è molto chiara, sono attaccato adesso. Il segnale adesso è fortissimo, 9:15, però io comunque già ti capisco, dai. C'è molta preparazione anche, sarà anche per quello, Antonio, non lo so, suppongo che sia anche per quello, la radio non è molto chiara. Via, avanti Fabio. Un scenario fine, cioè non è metallica ma fine. Certificazione pare che non nagge. Ti è arrivato o ti sta arrivando, questo non l'ho capito bene. ordinata e dovrebbe arrivare penso questa settimana o l'altra. Ok, vabbè, allora siamo vicini, vai. Siamo vicini all'installazione dell'antenna. Va bene, dai. Vabbè, continuate voi, dai, intanto io a Fabio non lo sento purtroppo. Faccio un giretto sui canali, vediamo un po' la preparazione come si sta comportando. Ciao Antonio, ciao Fabio, vai, continuate voi, intanto io a Fabio non lo sento, per cui Antonio. Va bene, aspettiamo i momenti migliori. Ciao Antonio, ciao Fabio, riprendi pure Antonio. Ok, non c'è problema. Adesso Fabio i soldati. Secondo. Sì, d'accordo. Da voi, che sto controllando su come sta uscendo tutto fuori. Ciao Riccardi, no, io sono arrivato adesso dal lavoro, dove sei? Io adesso sono a casa ancora, dopo pranzo parto. Ok, dai, va bene. Io però ti devo lasciare perché sto rientrando adesso, che mi devo sistemare, che ero fuori sassi, ok? Già ci sentiamo, dai, ci sentiamo stasera magari. Ok, allora ci sentiamo lunedì, va bene. Sì, lo so che sei andato a Lugia, va bene. Ok, ciao proprio. Ciao Ricca, ci sentiamo, dai. Sto uscendo bene col Polmar? Sì, sto uscendo bene. 6-9-10. Però anche la radio buona, sì, il Polmar 5 watt con il tunnel più 3, dai, il tunnel più 3 da tavolo, quello nero. Ok, ci sentiamo stasera, ciao. Sì, yeah, ciao Claudia, più tardi. Solo che c'era un bel casino, c'era sovramodulazioni e ogni tanto non capivo ciò che dicevo. Lo so, volevo entrare anche io prima che sono andato a comprare roba per il camper. Cavagava. E adesso mi le belle giornate, partite. Un attimo. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata, cambio. Riccardi, poi vai sul 16. Ho 5 minuti e poi devo di nuovo andare via. Doppio room. se lo vuoi provare chiamami e me lo fai sentire questo microfono. Ehi, più tardi te lo faccio sentire, adesso devo anche andare a sistemare il box per i cani per metterli dentro, perché adesso tra un po', come ho detto, dobbiamo partire, stiamo sistemando la cuccia. A dopo, Claudio. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, ciao. E via, e abbiamo fatto anche quello. Ok, mangia a giugno, quella che c'è si mangia. Si va a morire, c'è sta, c'è lo ricco, la buccia, c'è Pino, c'è Macchietto, il nuovo intelletto, la prima schiena, non voglio dare, non voglio dare nessuno, prima schiena, dopo lo ricco. C'è Pino, guarda, il tuo nuovo intelletto, dimmi se lo posso fare, sì o no, mangia a giugno. Pino a quarto braccio, stai parlando di Pino a quarto braccio? Esatto, infatti io sono in ferie, mi ha detto prima, il giorno prima andavo in ferie, sì, mi ha detto Green, su, ce l'ho già cava, però se il caso non la voglio, vado io provato, non lo chiedo, il giorno di tempo non è, bisogna andare io così, avanti, si già lui, sì. Marita, io sono troppo cupo, non capisco chiaramente quello che dice, parli un po' la radio, perché sto uscendo sempre più cupo. Sì, non ho capito l'ultimo passaggio, Marita. Guarda, è passato già il mese, sono lontano, Sì, comunque è Pino, quello che sta facendo tu, Esatto, va. Sì, ma io ho cercato di telefonare qualche volta, ma ho cambiato il numero, non lo so, ma volevo basta lontano e non sono riuscito a contattarlo, ma tempo fa ero lì vicino da quale parte quando sono andato a prendere la pensione, no? E non ho fatto il suo numero, però non mi aveva risposto, evidentemente ho cambiato il numero oppure non ho sentito la scritta, non lo so. Allora io, Giulio, rientro lunedì a Trapasso, io lunedì rientro e già lo sto contando. Se il caso, io la ricordo che nel caso detto lo sta richiamando, che lui non ha risposto, si può fare. Tu anch'io ti sento, non ti sento chiaro, diciamo, ti sento tutto stato a posto, diciamo, va. Appunto, io lo so, forse non siamo completamente in sonda, non lo so, io comunque sono a 27,75, giusti, e tutto il giorno zero, per cui la radio rimane un pochino compressa la tua, vai, non forte, però è compressa, è un vasino e non si capisce molto bene. Vabbè, comunque, se lo senti tu, me lo saluti o Maria, fammi questa cortesia, tanti saluti da parte mia a Pino, è sempre un amico, già lo sappiamo, adesso sono un po' di tempo senza vedere. È tutto saturo, capo di lineare. È proprio lineare, non è cosa lineare, è proprio lineare. Abbassa la radio, Giulio. Marino, è tutto giusto, sempre attaccato con un lineare, non ha bisogno di lineare. Non mangio nulla da fare, io non ho nulla, sono riccio, sono caro, guarda, sto utilizzando un somma che ha 624, sono riccio, e io sento male a Giulio, lo sento cazzo proprio a... E magari perché sono vicini, non lo so. Ok, fra. Giulio, ok, comunque il numero tempo io lo posso dare, dai, c'è una parte che mi sta chiamando. Sono giù con la carica, già Franco, già tu e Cottoni, io lo so. Ok, avanti Giulio, cambio. Ok, vai. Sì, non sto facendo bene, io ti posso garantire che sto facendo bene, forse se tu non sei centrato in frequenza, ma allora sarà per quello, non lo so. Ciao Mari, comunque, alle prossime, ci sentiamo, tanti saluti a Pino, quattro braccio, alle prossime, ciao. Avanti fra, buongiorno. Ehi capo, buongiorno. Era tutto saturo, Mario. Tu sei troppo alto di amplificazione. Sì, molto alto. Potresti abbassare anche un pochettino di amplificazione, perché il resto va bene. Ok, posso abbassare. Ecco qua, così dovrebbe andare meglio, no? Confermi? Adesso, scusa Giulio, Franco, adesso va bene, vedi? Anche tu adesso vai bene, ma adesso hai abbassato tu. Prima eri 9,20, adesso sei 9,11. Abbiamo avanzato il giorno di troppo, va bene, ciao Giulio, ciao. Ciao Marì, ci sentiamo, ciao, avanti qua. Franco. Aspetta, Giulio, un attimino che sono al telefono, un secondo. Ok, fra, d'accordo. Io. Sì, qua, sono qua. Ecco, adesso già va bene. Allora avevo ragione io, Era attaccato. Ma come è cambiato anche il segnale qua? Sì, beh certo, prima era 9.20 e quasi 9.19 era per l'esattezza, e poi è sceso a 9 più 11. Ma si non fa, magari attaccato, anche se dice di no, purtroppo. Quando è libera la radio c'ha una bella modulazione dietro che usciva bene l'ultimo passaggio che ha fatto. Sì, infatti, ma glielo ho detto, infatti si è messo a ridere lui. vabbè, Marino già. Infatti io non capivo un granché di quello che diceva prima. Poi sì, poi quando ha abbassato andava benissimo alla grande. Stavo dicendo, fra, allora adesso ho l'antenna Game Master originale, fra. Però l'ho messa sempre allo stesso punto dove era prima quella autocostruita. Non è che ci sia grande differenza, ma comunque forse un punto, due punti l'avrò recuperato, non lo so la verità, perché quella che avevo autocostruito era praticamente uguale, perché avevo preso le misure proprio da questa. Adesso ho l'antenna, mia nipote me l'ha restituita, l'ho montata, ma è sempre nel terrazzino, sempre nella parte bassa, anche perché poi non ho il tubo adatto per metterlo dall'altra parte, e dunque ho preferito lasciarla qua, e va bene comunque, anche poc'anzi ero in DX, in banda laterale, eccetera, a bomba dappertutto arrivavo, per cui va bene così, gira gira mi conviene lasciarla qua. Vai fra. No, io sei come sempre, dai, 9.5 qua. Con l'altra ti si è abbassato leggermente, ti viene abbassato, però diciamo che non intorno al 9. Ok, sì che già va bene, gira gira mi conviene lasciarla qua, poi almeno quando devo fare qualcosa sollevo la mano e sta col PL, e va bene così, poi si vedrà, col tempo si vedrà, comunque anche l'altra è pronta a piazzare anche l'altra, ma adesso no, per il momento non ho nessuna intenzione di piazzarla, anche perché ho un tubo che uno dentro l'altro non riesco a farlo scorrere, evidentemente si è arrugginito, e allora devo comprare un tubo nuovo. Va bene, pazienza, fra, dai, già va bene. Tu stai arrivando a bomba qua, 9 più 15 alla grande. Molto bene, avanti, fra. Vabbè, io sto usando il grande, sto usando. Quando uso quello grande è sempre così, sempre la stessa, fatta. Io minimo di 25-30 non gli do a questo. Ok, ho capito. Vabbè, va la grande, la radio è ottima, per cui meglio è così. C'è solo, non dico molto, ma almeno 9.5 ero di frequenza. Ho incominciato dai canali bassi, e poi sono salito sino ai canali alti, a 27.650, una cosa del genere sono arrivato. Ho fatto tappe un po' in tutta la banda, ho parlato un po' con tutti, dall'Alta Italia alla Bassa Italia, e va bene così, in banda laterale ero. Oggi era proprio una meraviglia, 9.20, 9.30 li sentivo anche, e altrettanto sentivano a me con lo stesso segnale, e dunque va bene così, va bene, dai, comunque, andiamo avanti. Oggi perché sono rientrato pochi minuti, siamo usciti, sono andato veramente a fare del mercino e poi a fare la spesa, e lui, sono rientrato lì pochi minuti, non ci sono andato, ma ho acceso poco fa, e niente. Sì, stamattina ho visto che verso le 9 c'era molta propagazione in quelle bande, infatti sono andato, ma non ci sono neanche entrato, perché stavo facendo un'altra roba e non ci sono neanche entrato a fare questa. gli altri giorni, ogni tanto già ci va, anche in quella 27555, lì anche già c'è un casino lì dentro, c'è una meraviglia. Sì, perché quella frequenza lì è canale 52, no? Praticamente 12 sopra i 40. Ed è il monitor nazionale, dove tutti vanno lì a chiamare, ma lì non mi fermo quasi mai, perché tanto lo so, lì c'è troppa gente, si accavallano l'uno sull'altro, per cui non è male. È peggio del canale 45, guarda, quello lì è peggio del canale 45, per cui non ne vale la pena. Già ci sono passato, già li ho sentiti anche lì, ma io vado o un po' prima o un po' oltre quella frequenza, per cui va meglio. Di solito quando si va più in alto, verso il 27600, 27650, lì è più pulita, diciamo, meno affollamento, meno sovramodulazioni, e va bene così. Va bene, va bene, avanti fra. Capo, sì, ma però lì è solo, diciamo, canale di chiamata, quello lì è per questa richiamata. Quindi come magari ti sposti da lì, no? E dopo rimane lì, no? E non si riesce a parlare, se no. E ti sposti di frequenza, infatti subito la prima cosa che ti dice frequenza, grazie alla frequenza spostata. Sì, in effetti è così, è vero, sì, perché è impossibile un po' per tutti parlare quel canale, perché tutti chiamano lì, tutti chiamano, però è un casino veramente. Io la verità si dica, nemmeno ci provo a chiamare lì, perché siamo qualche volta così, ma raramente, ma solo quando sento che c'è un pochino di calma, però quando c'è propagazione lì sono tutti su quella frequenza. Voi chiamate dappertutto, sia stazioni straniere che italiane, perciò è veramente difficile poter rimanere lì. Va bene, dai, è meglio spostarsi. Però c'è anche molto rumore, quando c'è tutta questa propagazione, alla fine ne esci solo, ne esci dal rumore che c'è dell'UQRM, per carità. Io ho provato a attaccarmi una colonnina, cioè una colonnina dalla Fayette, l'SP-121, e ho provato a attaccare qua, però rimane leggermente troppo bassa, rimane, non mi piace, e ce l'ho attaccata all'altra radio. E ti toglie tutto il QRM, te lo annulla, te lo zera proprio, non me l'aspettavo che questa colonnina facesse questo lavoro qua. Come si chiama? RP-121, così hai detto? SP-121, sì, della Fayette, ma è bellissima. Quando metti i filtri, te lo filtra veramente. Perché c'è l'interruttore, no? Che attacchi i filtri, ti abbassa sì la modulazione, però già si capisce anche se è bassa, no? Sì, man mano che va poi si alza come modulazione, no? Però non più di tanto, capito? Non più di tanto, ma deve avere un po' pulita, c'ha due tasse, c'ha due filtri, c'ha, ce n'è uno che è leggero, poi provo schiaccio quello di sotto e micidiale, quello lì all'inizio te la annulla la modulazione, poi parte piano piano piano. Ok, ho capito. E se un segnale è basso, però non si sente proprio, allora, mentre o si sente ugualmente? No, si sente ugualmente. L'ho provata. Ah, ok, allora già va bene, caspita, se ti elimina il QRM, va benissimo, lo so, esistono quel tipo di colonnine, lo so, vabbè, è meglio così, dai. E poi non costano nemmeno tanto, una ventina di euro costano, li ho visti tante volte, però ho pensato, ma chissà se è vero che funziona come dicono, e tu mi stai dicendo che funziona, evidentemente così, meglio così, dai. Capo, sì, ma anche io ero, cioè, ho detto, ma male che vada, c'è una colonnina torta, buonanotte. L'avevo pagata 18 euro, l'avevo pagata spedizione e tutto, l'avevo pagata. E invece è una bella colonnina, non è... benissimo, però. Ok, della Fayette mi hai detto che okay. Bene, bene, sì, è ottimo. Dopo la guardo al computer, sicuramente ci sarà. Va bene, fra, molto molto bene. Che ne so, l'una è 4 minuti, anzi l'una è 2 minuti, perché quello è un po' avanti, è un po' avanti, ma comunque ancora non ho sentito la chiamata. Di solito mi fanno scordare il telefono, perché io chiudo la porta qua, no? Perché giù poi nella sala c'è mia figlia che lavora al computer e quando mi sente parlare potrei disturbare, invece chiudo la porta. E allora cosa fanno? Dalla tavernetta mi telefonano, mi fanno scordare il telefono, vuol dire che è pronto il pranzo, così fanno. Ehi, cappa, mi ha detto che l'ho attaccata qua, ho dovuto salire il volume perché è troppo basso, il volume della radio. E lei mi chiede, non c'è un coso di correre quando molle? Sì, sì, e anche quando è bianco, quando c'è bianco lo stesso, non c'è QRM, anche quando non modulo non c'è per niente QRM, cioè se tu sei in ascolto lo stesso il QRM te lo smorza? All'inizio come molli ci rimane leggero leggero, poi tutto a un colpo se non c'è nessuno che modula si avvera. Ah, ho capito, caspita, e allora è interessante veramente, allora è una bella colonnina veramente, meglio così dai. No, io la verità tante volte l'ho guardata al computer, l'ho vista tantissime volte, però ho sempre pensato, chissà che sono balle quelle, e invece tu mi stai dicendo che funziona, meglio così, buona sapersi, dai, buona sapersi fra. va bene, avanti, riprendi. K, però mi piace più l'altra, mi piace, la sua, l'originale del K, la ST430, ed è più squillante, più bella. Sì, ma quella non è filtrata però, quella delle SP dei 430 non è filtrata quella è, senti sempre QRM. Sì, non è filtrata quella lì. Però è molto chiara, bella, e fa una bella modulazione. Eh beh, sicuramente, perché è stata fatta, costruita appositamente per la linea, dai, della Kenwood, per cui dovrebbe andare bene senz'altro, certo. Ma siamo sempre da capo, se c'è il QRM, è quello che a un certo momento, quando c'è propagazione, ti fa sordo e alla fine, ragazzi, te ne esci mezzo intontito dal rumore. Sì. Vabbè, basta metterlo basso, io la metto sempre a volume basso, basso, e ascolto bene abbastanza, ascolto. Infatti, quella lì non conta neanche la colonnina, vai e prova a cercarla, vedrai. Ok, fa. Va bene, dai, ci andiamo a mangiare, dai. Ci andiamo a pranzo, dai, l'ora e 7 minuti. Vabbè, fra, dai, fatti sentire stasera, scambiamo 4 chiacchiere, speriamo che non ci sia troppo rumore in frequenza, perché quando c'è così rumore, devo essere sincero, rimango infastidito un po' dal rumore, però se c'è collegamento da fare lo faccio ugualmente, non è che non lo faccio, ma comunque, no, se poi parliamo noi, il locale, va anche meglio, così almeno il rumore lo attenuiamo del tutto, perché posso mettere il coso, lo squelch, rimane basso, eccetera, eccetera, e sento sempre. Invece se faccio DX e comincio a mettere squelch, comincio a mettere l'attenuatore, e allora il discorso non va più bene per quei collegamenti. Vabbè, fra, dai, ci sentiamo stasera eventualmente, ok? Ciao fra, buon pranzo, grazie per la chiacchieratina, a stasera, ok? Ciao, ascolto finalino e chiudo. Cappa giù, ci sentiamo, dai, buon pranzo anche a te, buon tutto, ce ne ascoltiamo alla prossima. Sì, ci vediamo, dai, perché a volte quando c'è troppa propagazione, che c'è gente da fuori che modula lì, ci sono quelli spagnoli o arabi, cavolo so, e si sopramudolano anche quelli di Sassari, mi sopramudolano e non li sento neanche. Vediamo, dai, se la serata è buona. O che fa? E me la fanno apposta, mette, ma parlavi, è arrivata la telefonata lì, per scendere giù a mangiare. Ma boh, ciao Fra, di nuovo, buon pranzo, ciao, grazie. Grazie, ciao, buon pranzo anche a te, ciao ciao.